Non so, mi sono fatto prendere un po' dal jazz. Chiedo asilo. Basta però. Ma cosa basta? È la vigilia, è la vigilia di Natale, Drago. E noi siamo qui puntuali. Eh sì, qui l'asilo mediatico non chiude mai e noi ci siamo, volenti o nolenti. Non so se ci sia qualcuno dall'altra parte, diciamo, dell'etere. Quello è tutto da vedere. Che sono le 5 meno un quarto della vigilia di Natale. Appunto. Che cosa sta facendo il 90% della popolazione italiana? Ascolterà Chiedo Asilo. Come no? No? Sì, bravo, hai indovinato. Bene. Ascolterà proprio Chiedo Asilo. Allora è con grande emozione. Adesso sono tutti lì. Che mi rivolgo al 90% della popolazione italiana, quindi circa 50 milioni di persone, per augurar loro un felice Natale. Ormai l'IMU è stato pagato, anzi è stata pagata. È una tassa, l'IMU femminile. Sì, l'imposta. No? Se no, se non è stata pagata è stata evasa. Mm. Comunque, per il momento, l'IMU è come se non esistesse. Giusto. Quindi il Natale si preannuncia tranquillo. Quel che resta della tredicesima, chi ce l'ha la tredicesima? Io ho una vita che non la vedo, può ancora essere speso oggi per gli ultimi regali in extremis, no? Perché sì, adesso perché sarà scattato. Ci sarà il 90% della popolazione italiana che, ascoltando Chiedo Asilo, in questo istante, alle 5 meno 10 circa, insomma adesso non guardiamo l'ora, è impegnata proprio a prendere d'assalto i negozi per comprare i regali. E sono tutti ritardatari, certo, perché certo. È successo? Vabbè. Sai perché? Siccome c'era la minaccia della fine del mondo... E tutti non hanno rischiato, no? Magari fatto finisce bene. Il mondo, cosa compro? I regali? Mi tengo i soldi che mi servono, no? Se dopo finisce che finisce il mondo, certo. Certo. E quindi tutti all'ultimo, tutti costretti a fare le cose all'ultimo momento. Ritardatari. Tutti, tutti, anch'io sono costretto. Anche a tu? Anche invece io. Di andare per negozi, siamo qui all'asilo, però la vedo male stasera. Beh, ma è questione di pochi minuti, no? Poi anche noi saremo nel bel mezzo della folla di consumatori impazziti del 24 dicembre, quindi viva, viva! Cosa? L'olio d'oliva? Viva viva, no, piva piva, com'era? Piva piva l'olio d'oliva. Ma perché piva piva? Ma era una marca forse? Voci bianche, molto natalizio. Sì, però sono più belle quelle. Ma le olive cosa c'entrano a Natale? Mai niente, capito proprio. Ma sì. Infatti, mai capito, l'abbiamo inventato noi. Noi, cioè, non... cioè io e te. Ma sì, adesso che abbiamo. Piva, no, non l'abbiamo piva, inventata, piva. L'abbiamo collegata al Natale, cioè non ha senso. Ma che non c'entra con Natale? Ma no, non so, c'entra? Ma sì, una canzone natalizia, Guarda un po' dalla regia cosa ci dicono. Sì. È una canzone natalizia, sì, guarda, c'è il Babbo Natale, lì, no, come si chiama, il pupazzo che ma si piva scioglie. Piva l'olio d'oliva a Natale. A Natale, cosa c'entra? Ma i datteri, non so. Ma che i fichi secchi, ma che le olive proprio. Con i fichi secchi. Piva vuol dire cornamusa. Ecco, è vero. Infatti quando uno torna si con le pive nel sacco, sentissero almeno le cornamuse qui a Milano, niente, in giro non si per sente la strada. Niente. Milano è tristissimo, cioè, non è come Londra. A London. A London, cosa a London succede, Natale è più sentito, perché lì più... sono più religiosi, non ho ma capito. No, ma più religiosi parlo che in Italia. Consumistico. Ho capito. Qui ci sono le lucine, vabbè. Ma dove sono le musiche natalizie di Frank Sinatra, di quel lounge che escono dai negozi e si mischiano con le cornamuse, con... si mischiano così tutte insieme, tutte... preferisco il silenzio delle vie milanesi, un po' ma triste, vero, però ma almeno Drago, ma tutti quei suoni natalizi, quelle lucine, i babbi natali, pieni di babbi natali che ti salutano. O babbi natali? Babbi natali, fuori dagli salutano. Stores. Hello, I'm Babbo Natale. Hello, I'm... Sì, sì, così. Poi I'm Babbo Natale. Poi cosa? Ti stordiscono, ti immergono in un'atmosfera magica e inebriante i babbi natali con le campane, no? No, no, qui in Italia le musiche le senti solo dentro i negozi, sì. No? E nemmeno in tutti, perché se tu entri in un negozio cinese, e sono praticamente uno su tre a Milano, non c'è la musica di Natale, perché i cinesi mica sanno cos'è Natale. Se c'è musica, è musica cinese. E se il negozio è gestito da dei vecchi, la musica cinese è tipo questa. Bella. Arrivi a Natale. Invece se ci sono dei giovani dentro, è questa. Questa è bella, però. Dovresti cos'è vedere anche il video. Ci sono delle ragazzine con... Perché è musica cinese. È questa? Musica cinese, pop. Ma cantano? Eh sì, però il nostro tecnico doveva far partire da dopo. Ecco. Mi piace. A te piace tantissimo. Moltissimo. Vabbè. E questo è perché Natale in Cina non è molto popolare, capito? No, in Cina è popolare solo la Repubblica. Il giornale? Dai, basta freddure, ha ragione Tito che già qui si gela. E tu ne dici un'altra freddura. Vabbè, allora, dicevo che il Natale in Cina non se lo fila nessuno. Anche perché se si accorgono che sei cristiano. Cosa? Niente, meglio non dirlo. Però insomma, è meglio essere atei. Ma perché? Perché in Cina hai meno problemi se sei ateo. In Cina ti guardano male se non esoneri tuo figlio dall'ora di religione. Al contrario di qua. Cioè se uno non è esonerato dall'ora di religione lo guardano tutti come dire. Qui invece, Drago, chi se ne frega della Cina. Siamo all'asilo in Italia, culla del cattolicesimo, e quindi festeggiamo l'asilo. No, festeggiamo il Natale all'asilo. All'asilo. Però non ci sono recite in programma. Niente. Ma come mai? È i tagli. I tagli? I tagli, certo. Ma come? Tutti i coiffeur al giorno d'oggi, tagli, anche vabbè, all'asilo. Tagli e piega. Vabbè, se non sbaglio è pure saltata una visita di Babbo Natale che era prevista qualche giorno fa, poi non ho potuto fare. Ma sempre fare. Per i tagli? No, stavolta era un problema che riguardava proprio Babbo Natale, che sembra che facesse parte di una finta onlus che truffava la gente in giro per l'Italia. È una finta onlus, sai, quelle associazioni di volontariato. Raccoglievano soldi per progetti tipo il clown all'ospedale in mezzo ai bambini malati, Babbo Natale va dai bambini malati, tutto finto, i soldi finivano nelle tasche di questi geni del male. Ma scusa, ma cosa c'entra con il nostro Babbo Natale? Cosa c'entra? L'asilo aveva prenotato un Babbo Natale, però poi l'hanno arrestato nell'inchiesta appunto sulla finta onlus, quindi non è potuto venire. Ma quindi avevano ragione quelli a Scampia. Hanno arrestato Babbo Natale. E ora, bambini, ricreazione. Vai, questo qui è il mio, Vai, uno, due, tre. Jingle bells, no, è già partito, qui abbiamo sbagliato. Jingle bells. Va avanti, ho capito. Jingle bells, jingle all the way. Righteous made with my reign. This is in email. Sì, ti mando un'email, ma cosa dite? Cosa l'email? Cosa non capisci? Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Vabbè, ognuno sa il suo accento, no? L'accento, adesso non capisci questo qui, capito? Tu hai capito? Io la so, vabbè. E ne sai in inglese? La prima parte. Sì, quella che... vabbè. Jingle bell, jingle all the way. 25 with my living every day. Questo è molto bello, tu la conosci questa poi, certo. La seconda parte io me la dimentico. Ma secondo non c'è, abbiamo finito. Aspetta, cioè. fammela imparare anche a me. Vai, facciamola ancora. 1, 2, 3. Jingle bells, jingle all the way. Fammi sentire. If you can't miss me, ready every day. Ah, bellissimo. Ho fatto la R un po' irlandese, capisci l'accento. Questo Natale i saluti, gli auguri di Natale. Che stonato. Ma se facciamo le cornamuse noi, chi è che fa gli auguri? È un buon Natale, eh. Anche a te, spero che ci arrivi. Grazie.